avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Quanti anni hai, Federico? 12. Hai 12 anni, che cosa fai? La seconda? Eh sì. E tu che radio ascolti? Cioè, innanzitutto, a 12 anni si ascolta la radio? Di solito i miei compagni non tanto. Ah. E a volte anche mi prendono un po' in giro, ma a me più di tanto non mi interessa. Mi piace molto la tua trasmissione, ma ascolto anche Melog 2.0 alle 10 di nascosto. Come di nascosto? A scuola? No, di sera in realtà. Ah, ma e perché di nascosto? Perché Nicoletti dice un sacco di porcherie. No, ma non tanto, ma perché i miei genitori mi mandano a dormire presto. Ah, ok, solo perché devi stare sveglio e non potresti. In pratica prendo la mia radio, la metto sotto il cuscino e inizio ad ascoltare. Non c'entra assolutamente niente con l'argomento di oggi, ma volevo rendere omaggio al più giovane dei miei ascoltatori, Federico, che mi ascolta con la stessa trepidazione con cui noi guardavamo i giornalini zozzi negli anni 70. I genitori lo mandano a letto e la sua uscita dall'area del lecito è ascoltare Melog in cuffia nascosto sotto il cuscino. Federico continua così, crescerai in fretta, diventerai vecchio prima ancora che ti sia reso conto cosa significhi essere persone sagge. Federico ritornerà tra i nostri ospiti e tra le nostre suggestioni. Ho dedicato a lui l'incipit di questa trasmissione perché questa sera, quando mi ascolterà nel suo lettuccio di vergogna e di fuga dal controllo dei genitori, avrà un sussulto. Perché oggi parlerò di qualcosa che appartiene molto al mondo degli adulti. Qualcosa che è ammantato di senso di desiderio, di senso di peccato, di senso di vergogna. Chi ce l'ha molte volte se ne vergogna. O altre persone sono talmente spudorate da mostrare di averne più di quelli che in realtà hanno. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dei soldi. Parliamo del denaro. Del denaro non come entità astratta. Del denaro come frusciante materia in mano a una manciata di soldi. Amerei avere una vasca da bagno piena di questi soldi e magari farci il bagno. E forse nemmeno da solo. Questo è uno dei sogni della massima espressione della lussura legata al denaro. Paperonde Paperoni nel suo deposito si tuffa come un pesce baleno dentro le monete d'oro. Le banconote sono ammassate ai lati. Io ricordo questa iconografia di Topolino quando ero piccolo, ci sognavo molto. Il deposito di zio Paperone mi sembrava il luogo della felicità, che non capivo, che non riuscivo a commensurare. Come il piccolo Federico non capirà qual è il senso del denaro, perché gli adulti consumino la loro vita, i loro pensieri, perché i suoi genitori siano così preoccupati da mandarlo a letto la sera prima di ascoltare Melog. Perché? Perché si vive per il denaro. Noi viviamo per guadagnare soldi. La nostra massima aspirazione, la nostra frustrazione quando non siamo soddisfatti dal punto di vista professionale. Ma qual è la vera, unica, grande soddisfazione che dà il lavorare? È che ti paghino un buono stipendio, che tu hai un buon frutto dalla tua fatica. Un lavoro non corrisposto, un lavoro non retribuito non è un lavoro e ha il sapore amaro del ripiego, della sfigaggine. Quindi i soldi sono la ragione di questo. E poi cosa facciamo una volta che abbiamo i soldi? Ci paghiamo il nostro piacere, ci paghiamo i nostri vizi, ci paghiamo il nostro status, la nostra sensazione di essere qualcuno. Beh, il denaro è tutto questo, è il contrario di questo. Il denaro non a caso viene attribuito a un'invenzione diabolica. Il denaro l'ha fatto il diavolo, attenzione. Sì, attenzione. Attenzione anche a non trattarlo con leggerezza, a non disprezzarlo, a non considerare il peso e il valore che ha, a non considerare il suo potere d'acquisto, non soltanto legato ad oggetti, non soltanto legato a status, anche un potere di acquisto sottile. Se è denaro comunque trapelerà da ogni tuo poro il fatto che tu non ti debba preoccupare quando passi davanti alla vetrina di un negozio, quando tu vuoi invitare una persona a passare con te un momento felice. Non devi fare un veloce conto nella tua testa di quale sia la soluzione più economica, quella meno gravosa. Quando è il denaro che sostiene la tua sicurezza, hai tu 800 24 00 24. Oggi parleremo di quelli che denaro non lo hanno e quindi se lo fabbricano da soli. La cornice è proprio quella. La cornice è la morte sua, è precisa. Maestro, tocca a voi. Sotto. Sì. Lo tocco, sotto. Solvente. Ecco il solvente. Oh, ci siamo, Ci siamo. La carta. Subito. Ecco qua. Ma carta, portate sempre a pezzi. Sei la porta per comodità. Filagrana. La filagrana. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Donna, è il momento di scherzare. No, scusatevi. La filagrana. È la contentezza. È un miracolo. Ecco qua. mia moglie, perdonami. Non la so. Alla faccia del ragioniere Casoria. Perdona, la prima. Mi sento ma. No, Cardù, no. Nella nostra iconografia strapaesana, l'immagine che per prima ci salta alla mente, pensando al falsario, al costruttore di denaro falso, di colui che rischia due volte, perché già compie un'azione in sé illecita, riprodurre qualcosa senza il permesso del legittimo proprietario è un'operazione illecita, o perlomeno lo era in epoca analogica. Oggi, con la digitalizzazione di ogni realtà, comincia a essere oggetto di discussione anche questo. Ma tornando alla più grave colpa di chi riproduce denaro falso, e si va a toccare quello che è il dominio diabolico del grande satanasso che crea i soldi, e pur essendo affascinato e grato ad ogni criminale, a chiunque compia qualcosa di illecito, probabilmente non apprezza molto a chi copi la sua opera. Il falsario è sempre sfigato, il falsario va sempre a finire male. Il falsario nella catena degli illeciti è quello che alla fine paga per primo. Totò e Peppino, non a caso, hanno questa fantastica occasione di fare soldi falsi. Erano le antiche 10.000 lire, quelle rosse si ripiegavano in quattro, al segno dell'opulenza dell'Italia che risorgeva. Non ci faranno nulla. I loro soldi stampati li useranno per avere un'illusione di potere d'acquisto. Peppino si comprerà delle scarpe nuove scricchiolanti, però se le comprerà con i suoi soldi. Non avrà il coraggio di spendere il soldo illecitamente conquistato. 800 24 0024, avete mai avuto a che fare con soldi falsi? Nessuno vi aveva offerto dei soldi falsi a buon prezzo. Il 10% è già una buona offerta. Girano con delle valigette in alcune zone d'Italia offrendoti stock di denaro falso. Qualcuno gli è capitato questa cosa qua? Qualcuno ha mai avuto una banconota falsa e quindi è stato corroso dal dubbio? Cosa faccio? La porto alla polizia o la rifilo a qualcun altro? Qualcuno ha mai provato a fare soldi falsi? Qualcuno ha mai preso delle grosse fregature con soldi falsi che gli sono stati rifilati? Qualcuno amerebbe e gli piacerebbe avere la fabbrica dei soldi a casa, il porcellino che fabbrica banconote o monete d'oro? 800 24 0024. Lui si chiama Giancarlo, è un ex grafico che da solo, con strumenti che si comprano comodamente nei negozi o in internet, in 2 anni è riuscito a stamparsi più di 400.000 euro falsi e ora sta scontando 4 anni di carcere, di cui una parte ai domiciliari, dove si trova adesso. Giancarlo, con materiali che si trovano tranquillamente in commercio, o in internet, tu sei in grado di produrre banconote false, sì, ok? Sì, senza problemi. Questo cos'è? Questo qua è un tiro di serigrafia, per colare filigrane. Lucidi? Che puoi far fare in qualsiasi officina fotografica. Questi sono rubi nastri argentati. E poi vediamo ancora una matrice. Questa è una piastra che serve per dare lo spessore alla banconota. L'ho ordinata in America via internet, perché questo disegno, se l'avessi fatto qua in Europa, siccome ci sono gli euro, avrebbero fatto qualche problema. Il primo passaggio che dobbiamo fare qual è? Individuare la carta, cioè il supporto dove poi avverrà la stampa. Lucida da una parte leggermente e dietro opaca. Consistenza 80. Questo è un servizio delle Iene, intervistano un falsario che spiega i segreti del mestiere. Con l'aumentare delle tecnologie naturalmente aumenta anche la possibilità di riprodurre denaro falso, ma d'altro canto aumentano anche i sistemi di sicurezza. Io in mano ho una manciata di, alla fine sono pochi spiccioli, 20, 10 e 2 da 5 euro, soldini normali, ma già li vedo ipertecnologici. Non mi ero mai fermato e sono fermato a guardare con attenzione striscette magnetiche, cose lucide, calcomanie, cose che si vedono in filigrana. Sono sicuramente veri o forse no? Perché faccio questa trasmissione questa mattina? Ma non mi sarebbe mai venuto in mente di parlare di soldi. Io ho questa fantastica fobia per il denaro, quindi cerco di toccarne meno possibile e non so nemmeno quanto ne ho in tasca. Voi direte, sarei ricchissimo. No, sono mediamente sopravvivente con il frutto del mio lavoro, ma non mi piace toccarli. Mi piace immaginare che ne ho tanti o immaginare che non ne ho nulla, però avere il conforto e non avere difficoltà se devo comprarmi una bottiglia di tequila. Beh, l'idea mi è venuta da una furiosa melogmane che un giorno ci segnalò essere lei l'unica donna imprenditrice che si occupa di macchine per il trattamento del denaro. E quindi non potevo fare a meno di chiamarla questa mattina in studio. Carla Delfino, buongiorno. Buongiorno. Carla Delfino è un'imprenditrice, ha fondato la Imperial Emporium, azienda che si occupa di macchinari per il trattamento e la verifica del denaro e per la sicurezza dei documenti. È un personaggio internazionale, ho scoperto guardando e storcendo dati dalla sua biografia, quindi gira il mondo e è informatissima su tutti i sistemi di sicurezza per loro proteggere il denaro, e su tutti i macchinari e le possibilità e le malizie legate alla possibilità di riconoscere denaro falso. Carla Delfino, allora cominciamo a capire cosa fa un'imprenditrice del denaro, così capiamo meglio. Beh, il denaro da quando esiste c'è sempre stato qualcuno che ha cercato di contraffarlo. Figurati che le prime banconote risalgono al circa il 1300, sono state realizzate in Cina, e contemporaneamente ci sono già delle banconote false, e quindi immediatamente quando è stato inventato il denaro c'è stato qualcuno che ha cercato di contraffarlo. La tentazione è tanta, è un pezzo di carta, un pezzo di ferro che ha un valore aggiunto immenso rispetto al suo valore concreto, quindi perché non cercare di rifarlo? Infatti, perché il denaro in carta è stato proprio inventato quando era diventato molto complicato trasportare l'argento o l'oro, che erano le materie prime per cui sin dai tempi antichissimi si facevano le banconote. Quando il valore proprio del metallo non è più legato comunque al valore reale del titolo emesso, aumenta la tentazione. Sei d'accordo col fatto che i falsari siano sempre un po' sfigati alla fine nella catena dei criminali? Sì, decisamente. Sono degli artisti genialoidi che hanno scelto... Ne conosciuti? Io personalmente no, però ho assistito a tante situazioni, anche diciamo video, in cui si vedevano queste persone, e certamente non erano invidiabili. Persone anche che vivono in ambienti, pensiamo ai contraffattori del denaro americano, del dollaro, che vivono in Colombia. I loro, diciamo, padroni, perché questi contraffattori spesso sono al soldo, sono pagati... con uno stipendio basso anche, vivono addirittura, questi che sono stati arrestati in Colombia, vivevano dentro un buco, dentro una fossa nella piena della giungla, e così in modo che anche gli aerei americani che andavano a cercarli non riuscissero a trovarli, quindi vivevano proprio come dei ratti. Ecco, loro, la loro qualità era essere degli artisti, avere una capacità manuale e tecnica di riprodurre denaro. La grande capacità di un falsario è quella di riprodurre denaro con gli strumenti che si reperiscono sul mercato, non avere le grandi macchine da stampa che ci sono in tutte le zecche di Stato. Quello, diciamo, è una cosa abbastanza semplice. La capacità è quella di riprodurre una banconota che inganni il pubblico, non le macchine. Ecco, ti faccio un esempio. Io in mano 20 euro, ecco, li prendo, Carla Delfino. Questi 20 euro hanno questa striscettina, chi sta a casa può prendere anche lui in mano 20 euro e guardarli, questa striscettina come di stagnola, che sono la guarda in trasparenza, si vede il 20 come una sorta di ologramma colorato. Sì. Ecco, questo immagino che richieda un macchinario complicato. No. La riproduzione di queste, infatti questa doveva essere una delle caratteristiche di sicurezza di maggiore impatto, in realtà poi è stata falsificata quasi subito dai falsari. Si può fare con macchine reperibili sul mercato questa striscettina? Si può fare con pochissimi euro e bisogna essere capaci di farlo, e con la stagnola. Ora, non vorrei che qualcuno prendersi... No, non diamo consigli. Ecco, tu... che costruisci, inventi la tua azienda, pure l'ideazione di queste macchine, da dove parti per creare una macchina per riconoscere denaro? Chi è il tuo cliente medio? Allora, le nostre macchine servono per tutti coloro che, avendo a che fare continuamente con il denaro, non vogliono riceverne. E quell'attrezzo con la luce blu che hanno le cassiere? Sì, anche quelle, ma ci sono delle macchine automatiche complesse, più complesse, macchine. Ho visto anche delle penne laser, qualcosa del genere. Sì, diciamo, quelli sono gli elementi base. Poi ci sono delle macchine, sono dei computer a tutti gli effetti, che attraverso una serie di sensori verificano delle caratteristiche. E qui veniamo a praticamente come funzionano diciamo le caratteristiche di sicurezza del denaro, dell'euro. In particolare ci sono tre elementi. Primo, un elemento visibile, che sono quelli che conosciamo tutti: la filigrana, come dicevi tu, la striscia olografica, e nei 50 euro c'è quel inchiostro che cambia colore, si chiama inchiostro otticamente variabile. Una serie di caratteristiche. Che se uno li guarda con attenzione. Per esempio, in alto a sinistra, qui c'è, se tu lo vedete contro luce, vedete, ci sono due mezzi pezzetti di cifre che, se guardate contro luce, compongono la cifra 20, 10. Questo si chiama registro rectoverso. Anche questa è una caratteristica visibile. Però il falsario li conosce tutte e le rifà. Però non è facile da riprodurre. Infatti, spesso i falsi hanno questo registro sregistrato. Ma la prima sensazione quando le prendi in mano, quelli falsi, le senti a tatto che sono finte. Perché la carta è importante. La carta è un altro elemento di sicurezza, è una carta particolare, una carta fatta di cellulosa e di cotone. Poi c'è il secondo elemento di sicurezza. cioè degli elementi invisibili che sono noti ai fabbricanti di macchine per la verifica, e li interveniamo noi. Sono quelli che sai te, conosci quelli te. Che conosco io. E poi e quali sono? E sono, per esempio, segreti. No, si possono dire, degli inchiostri particolari, inchiostri magnetici, inchiostri infrarossi. E le tue macchinette le riconoscono. E le mie macchine le riconoscono. E il terzo livello? E il terzo livello si chiamano i livelli delle banche centrali. Cioè sono quelle macchine, cioè quegli elementi che soltanto le banche centrali dovrebbero conoscere, perché sono quelli che poi loro verificano. Che quando tu conosci. Non dovresti, ma li conosci. No, tu mi hai dato un consiglietto: metti 5 euro dentro il forno a microonde e guarda che succede. Che succede? Che c'è una parte all'interno dei soldi, della carta, che reagisce e esplode, fa una piccola, cioè esplode e diventa come una piccola mina antiuomo, fa un buchino e fa un buco. Sì, quindi noi portiamo in tasca dei soldi esplosivi. Ma tu ci hai mai pensato di andare tu dentro il microonde con i soldi in tasca? No. Ah, ci vuole un microonde. Sì. E questo è il terzo elemento, il terzo è livello. Un elemento di sicurezza all'interno della carta. Ma cos'è, un piccolo chip che esplode? Diciamo che è un elemento particolare che viene letto da un macchinario laser. Gian Nicola, buongiorno, primo ascoltatore. Buongiorno. Ci sono? Non sento bene. No, allora sentiamo perfettamente. Ah, ok. Ma quello che accadde a me fu a cavallo del 2000, quando stava per entrare in vigore l'euro e ritiravano le vecchie lire. Stavamo preparando un video dove dovevano esserci molti soldi, molte vecchie lire. Ovviamente non avendo la disponibilità di tutti quei soldi, li ha fatti bene. Finti. Esatto, li abbiamo fatti finti. Io sono un grafico e mi sono messo di buzzo buono facendo una scansione. Cioè l'ha scansionato, l'ha lavorato un po' con Photoshop, esatto, e l'ha stampato. Esatto, cambiando anche i numeri di serie, insomma, abbiamo trovato la carta con la grammatura giusta, abbiamo stropicciato un po', funzionavano per il video. Poi rimasero in questo teatro di posa e accadde che qualcuno, evidentemente, pensando, senza chiedersi come mai c'erano tutti questi soldi senza così se l'era fregato sicurezza, ne ha presi alcuni e è andato al bar di sotto e li ha spesi. Però il barista, sapendo che comunque stavamo girando una cosa del genere, ha pensato bene di chiedere mai, visto mai, erano un po' strani, ed è venuto fuori. Per fortuna siamo riusciti a fermare questa situazione, però era per dire che sicuramente con le lire si poteva fare una cosa molto, molto più bassa del ragazzo che parlava prima, con mezzi tecnologici a disposizione di tutti. Carla Delfino, le lire erano più facilmente falsificabili. Considera che l'euro ha cominciato a essere prodotto in forma, diciamo, come quella che conosciamo noi nel 1999. Quindi è logico che in 12 anni la tecnologia avanza, e quindi tutte le banconote che verranno prodotte da qui in poi, come per esempio l'ultima banconota da 100 euro, da 100 dollari, hanno in sé elementi di sicurezza maggiori. È logico, la tecnologia progredisce. Però Carla Delfino ha fatto vedere poco fa una banconota segretissima che penso che nessuno può vedere. Da quanto era quella che ho visto? 100 dollari. Da 100 dollari, che c'è addirittura qualcosa che si muove dentro, sembra che sia animata di vita propria. Cos'è quella cosa lì? È un elemento particolare, un elemento ottico, innovativo, inventato da alcune aziende, diciamo, americane, e sono state inserite in alcune banconote, fra cui anche nel dollaro. Il problema qual è? Che il dollaro, 100 dollari nuovo, con tutti questi elementi innovativi di sicurezza, doveva uscire l'11 febbraio, il giorno del mio compleanno, per questo me lo ricordo. Però ancora il 100 dollari non è uscito. E come leggi te questo ritardo? Leggo sicuramente con dei problemi tecnici, perché questi elementi di sicurezza che vengono inseriti nel questo piccolissimo foglio di carta creano un'incompatibilità gli uni con gli altri, e quindi sicuramente ci sono dei ritardi, nonostante gli americani. Comunque è impressionante, ho visto questa banconota, penso essere tra i primi a averla vista, dei non addetti ai lavori. C'è una striscia, sembra che ci sia dentro una sorta di acquario con delle cose che si muovono, sembra vedere i pesci che passano attraverso la banconota. Penso sia un sistema molto raffinato. Matteo, buongiorno. Sì, salve, innanzitutto volevo farvi davvero i complimenti perché è un argomento molto interessante. Lo so. Mentre parlava la signora, mi sono collegato da poco, quindi non so esattamente i titoli e la qualifica. Però è un'imprenditrice siciliana che ha fondato un'azienda che costruisce macchine per riconoscere i soldi falsi. Ah, ecco. E mi sembrava molto competente per quanto riguarda, diciamo, la questione monetaria della creazione di moneta. Quindi anche si apre il discorso dei soldi falsi, quindi chi ha diritto secondo la legge di stampare i soldi. E mi chiedevo questa domanda. Bella domanda. Se lei sa qual è il costo di produzione di questi pezzi di carta e poi chi ne diventa effettivamente proprietario sostanzialmente. Ce ne vorrebbe aprire una piccola attività di fornitore della zecca, ecco. No, mi chiedo io, no, questi pezzi di carta che avranno penso, io non sono esperto, ma un costo di produzione minimo, chi è che poi diventa proprietario, cioè è effettivo e quindi a tutti gli effetti? Beh, anche lo Stato batte moneta, proprietario del titolo è concreto, è il proprietario di chi c'ha in tasca, di questi 20 euro sono roba mia in questo momento, li do un altro, esaurisco il loro potere d'acquisto. Carla Delfino, vediamo. Io penso che la domanda del signore sia diversa, cioè in America e in Europa esistono degli enti che stampano i soldi e che non è lo Stato li compra i soldi da queste stamperie. Non ha una sua produzione propria. In America si chiama la Fed. Noi si chiama zecca dello Stato. Sì, e in Europa l'euro è stampato dalla Banca Centrale Europea. Cosa succede? Questi soldi vengono comprati dai vari stati per un valore nominale. Il signore chiedeva quanto costa produrre i roll. Ah, ecco, il costo materiale, ecco, del pezzo di carta. E questi soldi poi fanno tutto un ciclo, perché i denari hanno, a seconda del taglio, un uso diverso. Per esempio, 5 euro circolano molto di più dei 500 euro. 5 euro ha un anno, ha una vita media di circa un anno e mezzo. I 500 euro si parla addirittura di superare i 20 anni. Ma conviene stampare quelli piccoli, te ne comprano di più. Anche perché i falsari stampano e sono state raccolte più che altro banconote false sui 20 e i 50, in particolare i 20, adesso anche i 50 di recente hanno visto che i 50 sono ritornati in auge. Perché? Perché la soglia di attenzione del pubblico da 50 euro in su si alza di molto. I 10 euro, i 5 euro, pensate voi, li avete mai guardati? Quando vi danno il resto al supermercato, al giornalaio, nessuno fa caso ai soldi che ti danno indietro. In quel momento entra la capacità del falsario di riprodurre qualcosa che sia simile a una banconota. Fermiamoci un attimo, Carla Delfino, perché dobbiamo dare la linea alle informazioni della borsa. Tra un istante riprendiamo a parlare della catena di produzione del denaro, quello vero e quello falso. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Signore e signori, buongiorno. In questo piccolo video vorrei farvi vedere delle cose che forse possono aiutarvi ad evitare che vi rifilino degli euro falsi come hanno fatto con me. Il Mini Money Detector è un controlla banconote che vede la filigrana con la luce ultravioletta. Le stelle della banconota si illuminano. In più ha il controllo magnetico che verifica la banconota soltanto con il passaggio sulla parte magnetica. E questo ce l'ho, ve lo faccio sentire anch'io, lo sto facendo, sto provando anch'io, me l'ha dato appena Carla Delfino, è una specie di piccolo attrezzo da borsetta. Perché non mi suona il mio? Oddio, ho sbagliato. Ecco. Sono buone queste, quindi. Ecco, io con un piccolo attrezzino, sembra un piccolo vibratore da borsetta, in realtà strusciandolo, pigiando una cosa sul numero di serie della banconota, fa subito questo suono. È meraviglioso. In più è una pilettina che, se io illumino la mia monetina con questo raggio azzurrino, dall'altra parte vedo tutte delle... Beh, tanto alla radio, che ne sanno loro, posso anche far finta. Beh, vedo queste piccole stelline che dimostrano che la banconota è vera. Ecco, questi attrezzini chi li usa? Questi sono pensati proprio, sono degli strumenti semplicissimi, sono pensati per tutti coloro che magari, non so, il benzinaio, chiunque che debba controllare immediatamente due o tre elementi di sicurezza che sono quelli, diciamo, più visibili, più noti. Ecco. Ma prima mi hai fatto vedere che una lente professionale, se tu guardi una banconota, in realtà dove sta scritto 5 euro, invece che sembrano dei puntini in un piccolo retinatura, in realtà sono dei 5 scritto piccolissimo. Sì, quello sì, è difficile. È la microscrittura, è uno degli elementi di sicurezza della stampa delle banconote autentiche, perché i falsari, diciamo che ci sono tante categorie di falsari. I servizi segreti americani hanno riconosciuto 4 categorie di falsari, però diciamo quelli meno pericolosi. Ce le dici quali sono velocemente? Allora sono i falsari opportunisti, i piccoli criminali, i criminali organizzati e addirittura gli stampatori di Stato. Cioè i primi sono gli Umarell, quelli che si fanno i soldi finti nel garage. I primi sono dei ragazzi magari che si parla fino a 18 anni, che stanno lì, che hanno bisogno magari dei 20 euro, dei 50 euro, se li fanno in qualche modo e se li spacciano. Perché le tre regole d'oro del falsario sono: primo, non dire mai a nessuno che sei un falsario; secondo, non spacciare le tue banconote nella tua città; e terzo, non essere avido. Quindi avere come Totò e Peppino, dice aspettiamo, perfetto. Hanno aspettato tanto e non hanno il coraggio di spenderli. Perfetto, il falsario, diciamo l'opportunista, cioè il ragazzo che magari prova a fare questo tipo di cosa anche per scherzare, poi cosa succede? Che diventa avido e quindi continua con questi 20-50 euro che riproduce a spacciarli, e alla fine poi viene beccato. Sempre sì, fidato. sempre preso. Sentiamo un attimo Marco. Marco, buongiorno. Oh, buongiorno a voi. Dunque, ho chiamato perché l'altro giorno mi è successo che io ho un bar, un cliente francese mi ha pagato con un 10 euro di moneta, non di carta. Volevo sapere se, visto se che c'è la signorina lì, che se esistono o no. Allora, guardi, si immagini che all'inizio, quando gli euro hanno circolato per la prima volta, hanno pure messo in circolazione delle banconote da 300 euro con delle donne nude, e sono passati, in termine tecnico si dice che la banconota passa quando arriva alle banche, cioè significa che tanta gente l'ha accettata e poi qualcuno è andato in banca e l'ha versato. E invece le banconote sequestrate sono quelle che vengono sequestrate dagli agenti di sicurezza prima che vengano rimesse sul mercato, che facciano danno. Quindi quella banconota con la donna nuda o i 10 euro, sto testando euro, tutti i miei soldi mentre parli, sì, e i 10 euro in moneta che lei si è non visto esistono. Rifilare non esistono. Ma però, lei, scusi Marco, solo così una domanda senza malizia, ma come le è passato per la testa che potessero esistere i 10 euro in moneta? Solo per sapere. Ripeto che in Francia, ho detto magari una cosa così del governo francese, una cosa nuova. Oltretutto l'ho pure data via subito per un signore collezionista. Ah, quindi l'ha rispacciata subito? Io. Lei? Cioè, sì. Ma cosa c'era scritto su questa moneta? 10 euro. Beh, è interessante dire che state attenti che girano persone con 10 euro in moneta dicendovi che è moneta francese, buona per noi, ma in realtà non ho notizia che esistano. Poi può essere che magari è successo bisogna stanotte. Bisogna stare molto attenti perché la legge italiana colpisce lo spacciatore, colui che spende anche in buona fede, e si parla da 1 a 3 anni di reclusione. Quindi Marco, se la beccano la segano anche. Quindi a lei, bisogna stare molto attenti, perché ecco, anche se la sua buona fede potrebbe non essere creduta in un caso talmente eclatante. Ha capito Marco, ci stia attento. Grazie mille. Allora andiamo avanti. Noi abbiamo detto bene che si dividono in varie categorie i falsari. Cominciamo a capire com'è la catena della costruzione del denaro falso, come viene in mente, qual è la materia prima che bisogna reperire e come funziona anche poi il sistema, diciamo, di diffusione, attraverso quali canali viene spacciato. Io prima ho detto questa notizia che un cronista conosce senz'altro, perché si sa che ogni tanto ci sono i commessi viaggiatori con valigette e denaro falso che li offrono ai commercianti. Non è detto che tutti debbano accettare, ma sul mercato qual è il prezzo del denaro falso? Allora, diciamo, cominciamo dall'inizio. Con la grande, diciamo, avvento a livello popolare della tecnologia digitale, quindi dagli scanner alle stampanti digitali, ai Photoshop, cioè tutti i programmi di grafica che sono facilmente reperibili sul mercato, tutti siamo potenzialmente dei falsari. Perché la capacità di un falsario, lasciamo stare quelli professionali, ma parliamo di quelli occasionali, che sono quelli anche più interessanti, è quella di reperire sul mercato, presso i negozi di grafica, presso i negozi di belle arti, degli elementi che possono simulare gli elementi di sicurezza. Tu pensa, una volta dovevano usare gli inchiostri, fare le matrici incidendo una lastra. Oggi con Photoshop uno sa la paletta del colore, il pantone di quel colore, lo prende e lo può stampare volendo. Poi certo, da quello a fare una banconota credibile ce ne passa, ma il digitale aiuta. Allora, in teoria era così. In realtà ancora adesso gli stampatori i falsari più capaci continuano a utilizzare naturalmente gli strumenti della stampa, perché la stampa più seria di una banconota falsa è quella offset, è quella tipografica. Però il falsario, diciamo, fai da te, Cosa elemento di disturbo ha avuto? Proprio grazie alla Interpol, agli servizi segreti americani, eccetera, c'è stato un accordo con i grandi produttori di macchine per la lettura dell'immagine, per cui degli elementi di sicurezza presenti in tutte le banconote sono quei cerchietti piccolini, gialli o arancioni, sulla fronte. Se voi vedete, questi elementi si chiamano elementi di anticontraffazione, di antiriproduzione. Quando tu metti una banconota su uno scanner, su una fotocopiatrice, la banconota non viene più riprodotta. Quindi i signori falsari che vogliono utilizzare Photoshop o strumenti simili non lo possono più fare. Immediatamente la banconota viene riconosciuta. Anzi, dall'ultima conferenza dove sono stata io, addirittura ci sarebbe un link immediato con la segnalazione alle forze di polizia per sapere che quella persona sta riproducendo o quantomeno sta cercando. Se ne fa tanto di tale denaro falso, quanto ne circola occhio e croce? Allora, qui c'è un grande problema, perché in effetti le banconote che vengono sequestrate sono quelle che sono già passate, come abbiamo detto. Quindi le banconote quest'anno, nel 2010, sono state sequestrate 800.000 pezzi di banconote false. Cioè quelle che hanno riconosciuto come false. In Europa. Queste banconote sono quelle che hanno creato danno alla popolazione perché qualcuno le ha accettate e poi naturalmente è andato in banca e lì si è fermato. Il problema è di sapere quanto non è stato sequestrato, quanto circola. E si pensa che si parli di molte, molte volte in più. Oppure tutto quello che è, diciamo, nei cavò dei falsari, che è pronto per essere messo in circolazione. Quello che circola significa che nessuno ancora, per una serie di circostanze fortuite per chi l'ha spacciato, ha passato queste banconote attraverso un sistema di sicurezza, sì. O sono fatte talmente bene che ancora nessun cassiere se n'è accorto. Il giorno che arriveremo a una banca, che uno le prenderà in mano e dice queste sono false, quella esce dal mercato. Comincia a fare il circuito per cui diventa una delle banconote sequestrate, o quelle, le banconote passate. Quindi il problema grosso è naturalmente di capire quante banconote false circolano. E allora, se vi interessa, vi racconto un piccolo aneddoto veramente graziosissimo. Si sa che nella Campania circolano moltissime banconote false. E proprio per noi, anche a livello mondiale, quando io vado a fare questi convegni, si parla sempre di Napoli, della Campania. C'è un primato. No, quando sì, le cose sono così vanno dette, inutile. Allora, uno si può offendere quanto vuole, ma è una realtà oggettiva. C'è una cosa che a me ha fatto divertire moltissimo, perché in questi ambienti, soprattutto negli ambienti delle scommesse, insomma, dove si sa che circolano un pochino più di personaggi più disinvolti, pare che un signore abbia acquistato dei soldi falsi per darli in resto ai suoi avventori, ai suoi clienti. Ma cosa succedeva? Che queste banconote false, praticamente, lui è riuscito a dare talmente tanti falsi in giro che spesso attraverso i suoi clienti, i suoi stessi falsi, gli ritornavano indietro. Allora lui ha fatto un esposto alla Policristura dicendo si voleva tutelare sui falsi di ritorno della carta moneta che lui stesso spacciava e ha chiesto aiuto alla polizia. Ammettendo di essere uno spacciatore denaro? No, lui ha detto da me circolano un sacco di falsi. Senza dire che era lui che li metteva. Il resto poi è stato ricostruito dalla polizia, cioè questo... È un infame, come un riciclatore di regali di compleanno, la stessa cosa. Ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Il commissario di Palma di Montechiaro, Cesare Castelli, è meravigliato, stupefatto, perché la falsità delle banconote è quasi impercettibile, microscopica, invisibile. Quando i poliziotti hanno chiuso il lucchetto delle manette ai polsi di un pescivendolo di Licata, hanno contato i soldi, 1.200 euro, e non hanno creduto ai propri occhi, anzi ai polpastrelli delle dita. I biglietti da 20 e 100 euro veri, autentici, e invece no, sono falsi. Ci stiamo muovendo nel mondo fantastico e meraviglioso del denaro contraffatto. Io ormai sono stato preso dalla nuova mania, come se non bastassero le tante che già ho. Sono appassionato dal cercare le tracce nascoste nei soldi per vedere se sono finti o veri, ma non tanto perché mi interessi se ho denaro falso, denaro o denaro autentico, ma perché mi diverte moltissimo capire i segreti delle banconote. È vero, il denaro ha qualcosa di diabolico in sé, al di là di tutti gli attributi che noi possiamo conferirgli, anche il fatto che abbia dei segreti nella sua costituzione tecnica. Nel corpo di una banconota ci sono delle cose che voi umani nemmeno poteste mai immaginare. Carlo, buongiorno. Buongiorno. Senta, a me è capitato una storia un po' così, no? Che è abbastanza sembra improbabile. Quelle cose che fanno male comunque. Sì, le cose sono in questi termini. Io sono andato in banca per prendermi dei soldi, perché io sono un pensionato, no? Per cui non ho altri redditi, per cui non mi viene niente da nessuna parte. E nel gruzzoletto, che erano 500 euro, tutti da 50, c'era dentro una banconota falsa. Io mi sono accorto, si è accorta la cassiera di un supermercato, mi ha detto: guardi, questa è falsa. Voleva ritirarmela, ha detto: no, guardi, non me la dire, io vado in banca e dico: se me l'avete data voi. Però ci ho pensato bene, ho detto: se io vado in banca, questo lo prende, me la taglia. E alla fine della fiera sono riuscito a sbolognare. Quindi l'ha rispacciata anche lei, incorrendo nei rigori della legge. In una farmacia, lo dovevo fare. Io sono un pensionato, beh, 50 euro sono 50 euro. E non c'è la voce da pensionato, sta buffando. Ma c'è la banca, ce l'aveva in banca il cassiere. Perché non se la sono presa, se la sono sbolognata la banca? Questo non riesco a capire. Sentiamo cosa ci dice la nostra amica Carla Delfino, che ricordo è un'imprenditrice, ha fondato la Imperial Emporium, che è un'azienda che si occupa di macchinari per il trattamento e la verifica del denaro, ma anche dei documenti. E lei ormai è un'esperta a livello mondiale sulla contraffazione del denaro. Capita che al bancomat possono arrivare soldi falsi? Sì, sì, capita. Capita purtroppo. In quel caso uno, non dovrebbe capitare. Uno è come la legge del Menga, perché non è che può ritornare alla banca e dire: me l'avete data voi, figuriamoci, nessuno ammetterà mai questo. Ma in teoria con testimoni si può fare, cioè se tu sei in quell'occasione. Ma siccome nel banco c'è scritto: mantenete lontane le persone, che nessuno ha un testimone. Lì è una questione veramente spinosa. Comunque. Secondo lei lo fanno a posto oppure non si sa. Diciamo che ci sono veramente tanti casi di banconote false che vengono restituite dalle banche alla clientela, e per questo è entrato in vigore, sta entrando in vigore una nuova normativa della Banca Centrale Europea, un rilevatore al bancomat, per cui tutte le banconote che vengono poste in ricircolo, cioè che vengono restituite o dalla posta o dalle banche, devono essere controllate prima di essere restituite al pubblico. Noi avremmo dovuto adeguarci in Europa e in Italia fin dal 2010, però non si sono ancora adeguati, perché in Italia le regole sono fatte per essere... Però questa è un'informazione, è una bella notizia, bisogna starci attenti. Sì. E anche avere questo rilevatore a raggi ultrasonici non serve a nulla, perché una volta uno ha preso il pacchetto dal bancomat, come fa? Allora, ecco, quando hai preso i soldi dal bancomat è difficile, ma quando tu sei in banca, cioè l'unico momento in cui tu puoi contestare una banconota è nel momento in cui viene scambiata. Quindi è importante che se si ha qualunque dubbio, non si metta in tasca la banconota, si rimanga lì, si pretenda una verifica o quantomeno una sostituzione. Quindi io questo attrezzo mi hai regalato, me lo porterò sempre dietro. Certo. Quando vado a prendere soldi al cassiere, per una ne passo. Anche perché nessuno è obbligato ad accettare le banconote che ti sono date. Tu puoi pretendere da chiunque la sostituzione delle banconote. E cosa dico? Non mi piace perché è sporca. Ne voglio un'altra perché è sporca, perché è danneggiata. Ah, questo è interessante. Nessuno ti può obbligare ad accettare quelle banconote. Così come nessuno può essere obbligato ad accettare le banconote che tu da cliente dai al commerciante. Davide, buongiorno. Davide, ci deve puntualizzare qualcosa rispetto ai 10 euro? Buongiorno, sì. Io colleziono euro da quando sono usciti, ho sempre collezionato anche lire italiane e monete del regno. E io posso dire che il 10 euro esiste, come ne esistono tantissime da 20 e da 50 euro di monete. Sono tutte monete commemorative che vengono emesse. Sì, ma hanno un valore di moneta corrente, posso spendermela? Ma certo, sono monete. Sì, ma come la medaglia del Papa, io me la tengo, ma non è che posso andarci a comprare la mortadella. Quello è diverso. Quelle sono monete commemorative che magari vengono emesse il 10 euro, magari possono essere anche monete d'argento o d'oro. Ma io non è che metto in dubbio quello che dice lei, figuriamoci, ma ho davanti a me un elenco di monete commemorative. Ma lei se trova quei 10 euro lì già a livello di... Non le trovo solo le monete che corrispondono all'euro, ai 2 euro, ai centesimi. Non, certo, si batte moneta però diversa cambia diciamo l'impressione, c'è cioè una faccia. Se lei ha quella moneta lì, va da un numismatico, un negozio che gliela acquista, e magari sì, gliela acquista, ma non la posso, non la posso usare per comprare la benzina, diventa un baratto, non ha valore di moneta. Come ma se io dessi, che ne so, il mio accendino in cambio di un litro di benzina, è la stessa cosa. Sì, però quelli sono soldi veri, cioè la differenza è quella. Ma io non sarei molto d'accordo, Carla Delfino. No, allora, i tagli di banconote, di monete che circolano sul suolo europeo e sul suolo, diciamo, nel mondo, sono quelle ufficialmente emesse dalla Banca Centrale Europea. E naturalmente voi tutti sapete che le facce delle monete, forse per questo il signore di prima è rimasto ingannato, cambiano, diciamo, la faccia frontale di tutte le monete. Ma sempre la moneta è sempre la stessa. Quella posteriore cambia per ogni nazione di emissione. Quindi, per esempio, adesso le ultime nazioni che sono rientrate all'interno del sistema euro avranno delle nuove raffigurazioni nella parte posteriore. Sì, ma la moneta da 10 però euro la moneta esiste. Da 10 euro no. Non è commerciabile. È una moneta commemorativa che può avere anche un valore superiore a 10 euro. Adesso io non sono in questo campo, non è usabile come 10 euro. Certamente no. Così come non puoi andare con le sterline d'oro a comprare sì, quelle che ci fanno i braccialetti le signore, appunto, chiaro. Non ha senso, insomma, ecco. Allora, Leo, buongiorno. Buongiorno. Senta, le voglio dire questo, io sono un commerciante. Una volta mi è capitato 50 euro che un foglio di 50 euro che mi risultava falso a me. Allora sono andato da un amico mio che c'è una macchinetta e mi ha detto: guarda, queste sono false. Però io sono andato da un altro e risultavano buone, avevo un'altra macchinetta. Perché succede questo? L'avrei voluto domandare alla fabbricante. È qua con noi. Sì. Allora, perché? Perché lei si è trovato in due situazioni, uno con una macchina affidabile e uno con una macchina non affidabile. I commercianti ora, a prescindere dal mio ruolo, veramente per una piccola spesa possono veramente risparmiarsi un sacco di grane, un sacco di problemi e dare ai clienti un servizio, quello di restituire sempre banconote verificate. Quindi è opportuno, ripeto, avere delle macchine serie, delle macchine certificate, perché tutte le macchine più importanti vengono certificate o quantomeno verificate. Come avviene la certificazione? Andate in un posto... ho sbagliato il termine, non è certificazione ma test, vengono testate dalla banca centrale della nazione, in questo caso dalla Banca d'Italia. E come funziona? Tu vai con le tue macchinette alla Banca d'Italia, loro ti danno dei soldi e tu li verifichi? Loro ti danno due deck di banconote. Veri o finti? Quelli veri. Ah, false. Quindi loro sanno che sono finte, ma non te lo dicono? No, te lo dicono. Ah. E tutte le banconote vere devono essere accettate come vere, tutte le banconote false devono essere rifiutate. E loro ti danno un attestato, false. La macchina funziona? Si pubblicano sul sito della Banca Centrale Europea il nome della tua azienda, il nome della macchina e il test. E la Banca Centrale quindi ha del denaro falso che tiene nei come suoi no, forzieri? Come no. E cosa ci fa a parte questo? Intanto studiano, anche perché poi sono loro che gli unici autorizzati a certificare che le banconote sono false. Quindi tutti diciamo le forze di polizia, la Guardia di Finanza, i Carabinieri che trovano i soldi falsi in Europa, convergono tutte verso le banche centrali per dare loro la certezza del reato. Perché se io, diciamo, trovo te con dei soldi di cui non ho la certezza che siano falsi, non ti posso incriminare. Se invece quei soldi vengono certificati falsi, in quel caso la certificazione esiste, dalla banca centrale dello Stato, in quel caso io posso incriminare Gianluca Nicoletti per spendita o per contraffazione di denaro falso. Paolo, velocemente, cosa deve dire? Sì, buongiorno Nicoletti. No, volevo dire che io personalmente di denaro, moneta e carta non ne faccio grande uso. Uso sistemi delle carte di pagamento, carte di credito, bancomat, e poi anche nei trasferimenti di denaro con i bonifici, gli accrediti degli stipendi eccetera, fondamentalmente è virtuale, sì, la sì. Quantità di denaro che uno in qualche modo possiede, che ha depositato o che gestisce. Cioè lei vuol dire, diciamo, attendere i soldi falsi e i soldi veri, quanti sono circolanti e se ne vale poi anche la pena di intraprendere un'attività da falsario, visto che si dovessero poi moltiplicare. Quindi in sintesi dice lei, il denaro andrà a scomparire, come andrà a scomparire il denaro scomparirà il mestiere del falsario. È d'accordo Carla Delfino? No, purtroppo. Nemmeno io molto. No, sì. Allora, in tutti i convegni la prima cosa che si dice è the money is the king, i soldi sono il re. Allora, facciamo solo un semplice esempio. Oggi circolano in Europa 13 miliardi di banconote euro. Quando è uscito l'euro ne si circolavano 6 miliardi di banconote. Quindi, come vi rendete conto, il denaro serve perché è facilmente spendibile, il denaro contante è accettato da tutti, non hanno bisogno le persone di avere del credito per avere il denaro contante. Quindi il denaro ci sarà sempre, e poi serve anche per le grandi e tantissime attività illecite. Poi, scusa, se il denaro lo fabbrica il diavolo mica sta lì a pettinare le bambole, è chiaro, certo, che ne mette sempre più in circo. Grazie Carla Delfino, grazie agli ascoltatori, grazie. Ci sentiamo domani. Melog 2.0. Parti dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.